Credo che l'Europa abbia bisogno di un drizzone, di andare verso una maggiore concretezza, superando anche l'ultimo ostacolo che avete visto si è manifestato con quell'1% di differenza nel referendum irlandese, per cui si è verificato ciò che si temeva si potesse verificare, che questa Europa non incontra certo la simpatia dei cittadini europei, è sentita come l'Europa delle burocrazie e non come l'Europa della gente. Credo che dovremo superare questo ostacolo. Vi dico subito che porteremo l'indicazione nostra di approvare il Trattato di Lisbona da parte di tutti gli altri Stati e quindi arriveremo a 26 Stati che hanno approvato il Trattato, il 27esimo l'Irlanda che dovrà in qualche modo dare una sua soluzione, ma che questo debba essere un primo passo verso un deciso cambiamento, verso un'Europa dei popoli, un'Europa della gente, un'Europa anche che portatrice dei concetti di libertà e di democrazia possa essere protagonista sulla scena mondiale. Cosa che oggi non è assolutamente.